Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane. Il programma inizia ora, ma prima andiamo con la sigla di questa trasmissione. Bene, questa era la sigla iniziale di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, va in onda ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21.30 qui dagli studi di Radio Onde Furlane e trasmettiamo da Udine. E ricordo che siamo proprio in diretta radiofonica e questo programma viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli e Udine, scusate, Trieste. Bene, andiamo ora all'ascolto di questa band svedese, più volte credo l'abbiamo presentata questa band, loro è l'album datato 1999 che si chiama All Day Hell, loro sono i Wolfpack e comunque non possiamo mai dimenticare anche per questioni etiche la scelta di questa band che da Wolfpack sono poi hanno cambiato il nome, il Wolf Brigade, per questioni ovviamente etiche, perché venivano sennò confusi con un gruppo neonazista di motociclisti proprio in Svezia. Quindi giustamente hanno cambiato il nome tutti gli album successivi e insomma uscite discografiche in Wolf Brigade, tuttora band esistente. Allora, Wolfpack. Si mandi a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Zernis Magnetics. Allora, la scorsa settimana abbiamo parlato abbastanza diffusamente della lotta contro la SIOT in Carnia, e lotta che si è manifestata dopo molte altre iniziative che si sono svolte dall'estate scorsa fino a oggi. Si è manifestata di nuovo sabato 15 luglio scorso attraverso un corteo dal centro di Paluzza fino davanti all'impianto di cogenerazione che si rifiuta. E allora, per così, ci colleghiamo con questa cosa che è avvenuta insomma sabato scorso, dando lettura di una cronaca di una giornata di lotta contro l'alta velocità in Trentino, e perché questa appunto giornata di lotta portata avanti dalle compagne e dai compagni è molto significativa per la creatività e lo spirito combattivo. Appunto, compagni e compagni sono riusciti a sostenerla in maniera eccellente, e insomma abbiamo pensato che questa narrazione può essere di buon auspicio e di stimolo per 10, 100, 1000 altre lotte contro lo sfruttamento e la colonizzazione dei territori. possiamo dire così, per quanto ci si possa trovare in difficoltà e per quanto anche ci mettano alle strette, mai tirare i remi in barca. Allora vado a leggervi la cronaca. Trento, 9 luglio. Una giornata di lotta contro il TAV. 8 luglio, Ezio Facchin, uno dei principali promotori dell'alta velocità in Trentino, già commissario straordinario per le tratte di accesso sud al corridoio di base del Brennero, dichiara sui giornali che non verranno più tollerate le proteste contro l'alta velocità in Trentino. Il riferimento è chiaro. Le iniziative delle ultime settimane, dal corteo No TAV, che ha visto la partecipazione di centinaia di persone, alle contestazioni e ai blocchi concreti dei lavori, temporanei ma totali, stanno dando fastidio e intralcio a un progetto che, per gli interessi in gioco, non può in nessuna forma essere messo in discussione. Ma il riferimento di Facchin è evidentemente anche al presidio permanente della collina occupata, uno spazio che negli ultimi mesi è animato da una socialità e da una lotta spontanea, orizzontale e plurale. Un luogo che, grazie alla disponibilità concreta di alcuni e alcune a viverlo giorno e notte, si è deciso di occupare, perché è nevralgico al fine dell'intralcio dei lavori di scavo per l'imbocco nord della circonvallazione di Trento. Luglio. Con una tempestività degna di uno stato di polizia, alle 6 di mattina polizia politica, celere, carabinieri e finanza, in assetto antisommossa, irrompono nella collina occupata. Due compagni e amici riescono a salire su delle casette sugli alberi, costruite giorni prima allo scopo di resistere più tempo possibile. Un terzo compagno presente viene allontanato immediatamente. Incuranti della loro presenza e a rischio della loro incolumità, i lavoratori della cooperativa Lagorai cominciano a devastare e perimetrare la zona. Nonostante l'ora, quasi nell'immediato si raduna una ventina di solidali che riescono almeno a fare interrompere queste attività, alcuni sedendosi per terra e facendosi spostare di peso. A quel punto si cerca di mantenere una posizione dalla quale sia possibile almeno osservare chi resiste. La polizia, con scudi e manganelli, tenta un'azione muscolare per respingere più indietro le solidali e i solidali, ma questa azione muscolare non riesce, anche grazie al fatto che il numero di persone che raggiungono il presidio è in aumento. Domenica. Di qui in avanti è il racconto di una giornata e un'esperienza di resistenza non scontata per la dinamica delle iniziative di lotta non solo contro il TAV in Trentino. Questo grazie alla determinazione dei due compagni a resistere sugli alberi e all'evidente impasse delle forze dell'ordine di fronte alla solidarietà concreta e attiva che si manifesta. Nel corso della giornata il numero di persone che attraversa il presidio, ormai spostato in piena via Brennero, aumenta sempre di più, raggiungendo in alcuni momenti le 200 persone, e molto sentita e ampia è la partecipazione ai due momenti assembleari per decidere collettivamente come proseguire. Seppur in una domenica torrida e assolata, scelta non a caso dalla polizia per lo sgombero, via Brennero, una delle arterie della città, resterà per 16 ore completamente bloccata. Un medico, scortato dalla polizia, viene fatto entrare per sincerarsi delle condizioni dei compagni e compagne sugli alberi. Alcuni solidali riescono a infrangere lo stretto controllo poliziesco e portare direttamente acqua e cibo e sigarette. La partecipazione è ampia e determinata a dare una solidarietà concreta con chi resiste, anche quando verso sera le forze di polizia sembrano compattarsi per un'azione di forza. La pronta risposta dei solidali e delle solidali è quella di imbastire una cena collettiva in piena via Brennero occupata. A tarda sera, di fronte all'impossibilità di sostituire chi sta sugli alberi ormai da tutto il giorno, si arriva alla decisione collettiva di portare a termine la giornata, a patto però che i compagni raggiungano il presidio senza essere portati in questura. Così avviene e un'ovazione è pronta ad attenderli. Conclude così una giornata di lotta e di resistenza importante, un tassello nella lunga lotta contro questo progetto e non solo. La tristezza e la rabbia per la perdita di un luogo simbolo della lotta, un'autentica oasi di socialità e vita in mezzo alla cementificazione, è in parte compensata dalla consapevolezza che tanti e tante singoli e gruppi hanno risposto all'appello alla resistenza, collegando la questione TAV, circonvallazione di Trento, al più generale attacco istituzionale padronale, alle condizioni di vita e di lavoro e allo spreco di risorse per il profitto di pochi. Dentro i palazzi istituzionali e politici e amministratori senza scrupoli, mossi soltanto dalla fame di guadagno, spingono sull'accelerazione dei lavori a discapito di tutto, a rischio della salute e della vita stessa degli abitanti. Nelle strade, le forze di polizia cercano di reprimere chi si batte contro la costruzione di un'opera insensata, inutile e dannosa. Ma altrettanto chiaro, dopo questa giornata, è che a differenza dei promotori dell'opera, l'opposizione a questo scempio sociale e ecologico conta sul sostegno della popolazione. I lavori di cantierizzazione sono soltanto all'inizio, la partita è ancora aperta. Ciò che è deciso a livello istituzionale, una mobilitazione ampia e determinata, può fermare, fare in modo che non si realizzi. Questo deve anche passare però da azioni concrete, di disobbedienza attiva e di intralcio dei lavori. Occorre mettersi in gioco tutti e tutte, prima che sia troppo tardi, perché il no a quest'opera è anche il rifiuto ad accettare passivamente decisioni imposte dall'alto, senza provare a battersi. Estendiamo la lotta nelle piazze, nelle strade, sotto le sedi istituzionali, di fronte a ruspe e cantieri, con gioia e determinazione. Assemblea NOTAV Trento, 10 luglio 2023. fighting us superior, making us inferior. Vikings got needed, but we're never heeded. Fighting us superior, making us inferior, making us inferior, making us inferior, making us inferior. E la band che stiamo ascoltando in sottofondo sono i War System, band inglese, da questo album Split uscito nel 2011 assieme ai Grind the Enemy. Quindi noi rimaniamo all'ascolto di questi War System. Sì, ritorniamo in voce e riprendiamo un altro tema, diciamo, che abbiamo affrontato durante la scorsa settimana, la scorsa puntata di The Dance Magnetics, cioè quello della guerra. E chi ha ascoltato, insomma, c'è stata questa presentazione abbastanza approfondita anche della rivista Tesi Antitesi, che appunto affrontava la questione della guerra, la guerra al centro. E parliamo, sì, Antitesi, la rivista era non Tesi Antitesi, scusate, e appunto annunciamo intanto questa mobilitazione internazionalista e anti-autoritaria contro la guerra, un incontro che si terrà a Roma tra due giorni, cioè sabato 22 luglio. E appunto l'idea di questo incontro è venuta fuori proprio nel corso di una due giorni di discussione sulla mobilitazione in solidarietà ad Alfredo contro 41 bis e ergastolo ostativo, due giorni che si è tenuta a Torino in giugno, a metà giugno, e appunto è emersa la necessità di affrontare il tema di primaria importanza, il tema della guerra, e anche di capire, insomma, cosa fare. E appunto, quindi ci sarà questo incontro, la chiamata, diciamo, dice contro la guerra, contro la pace, per la rivoluzione sociale. L'antimilitarismo, l'internazionalismo, la lotta di classe sono da sempre baluardi dell'anarchismo. Come è avvenuto con la recente mobilitazione in sostegno ad Alfredo Cospito, la nostra volontà di lottare può contribuire a cambiare lo stato delle cose. Ci troviamo sabato 22 luglio dalle ore 11 a Roma, al punto solidale Marranella. Vabbè, per poi chi può partecipare, trova insomma nei vari siti di compagni tutte le indicazioni, e quindi non sto a dirvi esattamente insomma dov'è questo spazio, questo punto solidale. E ecco, per continuare così un po' ad affrontare la questione della guerra e dell'approccio antiautoritario alla guerra, leggiamo un volantone realizzato sempre a Trento dall'Assemblea contro la guerra. Il volantone si intitola "Facciamo deragliare la locomotiva della guerra". È in atto una pericolosissima tendenza all'estensione e all'intensificazione della guerra, che consuma con tragica rapidità la capacità di esprimere una vasta opposizione ad un tragico piano inclinato che scivola verso il già sperimentato macello dei popoli. La Russia non firmerà nessun trattato ineguale con l'Occidente, così come l'Occidente non lo firmerà con la Russia. Il momento è grave. Se all'inizio del conflitto in Ucraina Biden affermava che non si potevano inviare carri armati e cacciabombardieri all'esercito di Kiev, pena il rischio della terza guerra mondiale, a 16 mesi di distanza, dopo aver fornito missili ad ampia gittata e mezzi corazzati, nonché programmato l'impiego di proiettili all'uranio impoverito, la NATO si organizza per mandare anche gli F-16 e, come abbiamo visto, anche le bombe a grappolo. Mentre la popolazione ucraina continua ad essere colpita dalle bombe russe e quella del Donbass dalle bombe della NATO, le esercitazioni militari si fanno sempre più imponenti in Italia, in Germania, nell'est europeo, nell'Indo-Pacifico. I piani di riarmo crescono a scapito di salari, pensioni, sanità. La propaganda bellica diventa ancora più subdola e feroce. Nell'incontro del G7 a Hiroshima, un luogo drammaticamente simbolico della furia distruttrice degli armamenti, i governi occidentali hanno dichiarato senza mezzi termini il rifiuto di ogni mediazione e la volontà di sconfiggere sul campo la maggior potenza nucleare del mondo. Più di recente, l'ex segretario generale dell'Alleanza Atlantica Rasmussen ha ipotizzato l'intervento in Ucraina da parte dell'esercito polacco, cioè di truppe regolari della NATO, non solo distruttori e contractor come è avvenuto fin qui. Intanto il ministro russo Lavrov afferma che il Cremlino è pronto a scontrarsi direttamente con la NATO, e politologi russi piuttosto ascoltati suggeriscono l'impiego di armi atomiche tattiche in Europa come avvertimento per l'intero Occidente. Guerra mondiale non si nasce, si diventa. Per capirlo bisogna smetterla di farsi abbindolare dai fini dichiarati e osservare i mezzi impiegati, perché è la loro concatenazione concreta, non certo le chiacchiere di copertura, a determinare le conseguenze per l'intera umanità. Più smisurati sono i mezzi, e cosa c'è di più smisurato della bomba atomica, più essi divorano i fini in nome dei quali vengono usati. La distruzione atomica è strumento di niente, perché essa distrugge insieme alla vita umana sulla Terra ogni finalità nel mondo. Ma anche senza arrivare fino alle armi nucleari, tutte le tecnologie che vengono impiegate sui campi e sui cieli della guerra tornano indietro contro di noi. Già la guerra in Iraq del 2003 è stata una gigantesca fuga in avanti in materia di intelligenza artificiale e logistica del conflitto, tracciamento dei dati ed elaborazione dei sistemi automatici di arma. Va ricordato che l'Iraq, per la NSA, National Security Agency, è stato anche il campo di sperimentazione delle tecniche di sorveglianza di massa della popolazione, che si è poi adattato al furto per motivi militari e di mercato dei dati di 20 milioni di persone in Germania, vicenda conosciuta come scandalo Snowden. L'intelligenza artificiale gioca un ruolo decisivo che non ha nulla a che vedere con un immaginifico processo di sterilizzazione del conflitto verso una guerra tra macchine. Il ruolo decisivo dell'intelligenza artificiale porta invece verso nuovi e più devastanti livelli di distruzione materiale e umana, entro una rivoluzione del mondo militare pari a quelle portate dall'invenzione della polvere da sparo e del nucleare. Ogni giorno in più di guerra in Ucraina non provoca solo altri morti tra civili e militari, non distrugge solo altre case e infrastrutture, ma permette agli stati, agli industriali e ai tecnocrati di affinare tutto il loro arsenale antiecologico, antisociale, antiumano. Che grande affare, la guerra. La ricostruzione dell'Ucraina rappresenta una grossa occasione per i capitali occidentali, talmente importante che si sono già adesso affrettati a spartirsi la torta, senza neanche aspettare che si arrivi a una tregua. Consulente del governo ucraino è il fondo finanziario BlackRock, ma anche l'Italia gioca un ruolo di primo piano. A Roma il 26 aprile scorso, durante la conferenza bilaterale per la ricostruzione dell'Ucraina, si sono seduti al tavolo i rappresentanti delle principali aziende del capitalismo italiano: Eni, Enel, Webuild, Mercegaglia, Ferrovie dello Stato, Leonardo. Quindi energia, siderurgia, trasporti, costruzioni e armi. Confindustria ha aperto in tal senso una propria sede a Kiev già nel gennaio 2023. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, non avrebbe potuto essere più esplicito. La ricostruzione in Ucraina sarà il più grande motore di crescita nell'Unione Europea. L'Ucraina del futuro assomiglia tragicamente a quella presente, una marca di confine dell'Europa a trazione NATO, da cui estrarre materie prime, gas e ferro, ma anche manodopera a basso costo, senza dimenticare il mercato della maternità surrogata che vede l'Ucraina tra i primi paesi al mondo per uteri in affitto. Da tempo l'emigrazione ucraina in Italia fornisce braccia soprattutto per la cura degli anziani. Su 140.000 emigrati emigrate ucraini, il 65% lavorerebbero come colf e badanti. Ma nel cantiere del pianeta, come qualcuno ha ribattezzato il paese, si stanno anche sperimentando nuove forme di governance nel nome dell'emergenza, in questo caso bellica. Una delle prime misure varate allo scoppio della guerra è stata la soppressione del diritto di sciopero, l'estensione degli straordinari e la possibilità per gli imprenditori di licenziare senza contrattazione coi sindacati. Perfettamente coerente, pertanto, il riferimento manifesto della dirigenza ucraina a uno Stato che dalla sua origine si basa sulla mobilitazione permanente della cittadinanza contro il nemico esterno e interno, quello israeliano. Zelensky ha infatti dichiarato che, stante l'impossibilità di uno sviluppo in senso liberale europeo, l'Ucraina del dopoguerra avrà come modello per le politiche di sicurezza lo Stato di Israele, cioè quello della detenzione amministrativa dei prigionieri palestinesi, degli omicidi mirati, dei checkpoint, eccetera. Stiamo leggendo questo lungo documento che si intitola Facciamo deragliare la locomotiva della guerra, volantone curato dall'Assemblea contro la guerra di Trento. Magari adesso mettiamo un pezzo musicale e poi continuiamo con la lettura. Bene, stiamo ascoltando in sottofondo questa band giapponese, loro sono i Crude, è una band del nord del Giappone, della regione di Hakodate, e questo è un loro album uscito nel 2018. Politiche lacrime e sangue sperimentate in Ucraina sono le stesse propagandate da Confindustria in Italia, dove è stato riabilitato il lavoro minorile non retribuito attraverso i PCTO, ex Alleanza Scuola Lavoro, introdotta da Renzi. Chi si è opposto al PCTO, ai PCTO, in seguito a morti sul lavoro di propri coetanei durante questa attività, ha incontrato nell'ultimo anno una forte repressione statale. A Torino, 4 studenti sono rimasti per 7 mesi ai domiciliari in attesa di giudizio, accusati dei tafferugli davanti alla sede di Confindustria durante un corteo. E da quando è scoppiata la guerra si sono fatti, se possibile, ancora più imponenti dispiegamenti di forza antisommossa per sgomberare picchetti dei lavoratori della logistica, il settore più combattivo in Italia nell'ultima decade. L'ultimo esempio è l'avvertenza nei magazzini di Mondo Convenienza con il pestaggio dei lavoratori in sciopero. Anche questa è economia di guerra. Il progressivo restringimento di ogni margine di dissenso e di lotta con la militarizzazione del conflitto sindacale. Il nemico è sempre lo stesso. Le guerre sono state sempre il mezzo per accumulare ricchezze a danno dei paesi sconfitti e per fare profitto con la loro ricostruzione, ma anche a danno dei paesi vincitori, delle loro classi più povere che pagano la guerra con le loro condizioni di vita materiali. Il passaggio al capitalismo estrattivista digitale e tecnocratico, gas, litio e cobalto rappresentano un nuovo oro, fa crescere un neocolonialismo che provoca una neoschiavitù nei paesi dove si trovano queste risorse e dove i paesi dominanti dislocano appositamente le loro missioni militari, che sono missioni militari neocoloniali. Il 98% delle missioni di queste missioni coincide con le aree estrattive di petrolio e gas e dove anche il ruolo di Eni è trainante. Questo capitalismo, sempre più basato sulla guerra, rapina le classi più povere dell'Occidente ed anche il Sud e il non Occidente del mondo, ma le guerre e il colonialismo sono anche interni. Bisogna ampliare il concetto di guerra senza avere paura di perdersi nelle riflessioni, perché tanto il nemico è sempre lo stesso. Non c'è capitale senza oppressione di classe, di razza e di sesso, e senza Stato che abbia la forza e i mezzi per condurre questa oppressione, queste guerre interne che sono materiali e culturali. Sanzionare i salvataggi in mare, definire gli immigrati carico residuale, legalizzare l'omissione di soccorso è guerra contro gli immigrati. L'inflazione e il caro vita sono guerra contro le condizioni di vita materiali delle persone e dei lavoratori salariati. I contratti collettivi di lavoro sono scaduti, il salario reale è al minimo storico in un mercato del lavoro che ha elevato a regola naturalizzata lo sfruttamento avido e cinico dell'uomo. Negare un reddito ai disoccupati, ai precari, a chi pur lavorando non arriva a fine mese, non è guerra questa? Il caro affitti affinché i proprietari possano trarre il massimo dei profitti è guerra interna contro i poveri e i precari. È la guerra economica che è in corso da decenni. Mentre aumentano le spese militari, diminuiscono i fondi per la sanità e la scuola pubblica, per la non autosufficienza dei disabili, per l'assistenza ai poveri. Anche questa è guerra. In poche parole, le ingiustizie sociali sono guerra. Lo 0,13% degli italiani più ricchi, 80.000 individui, possiede da solo quello che possiede il 60% degli italiani più poveri, 36 milioni di individui. Non può esistere alcuna pace senza giustizia sociale. È guerra quello che è successo in Emilia. È la guerra al clima e al territorio, sempre più sfruttato, cementificato, i fiumi rinchiusi in argini impossibili. L'Emilia-Romagna è una delle regioni d'Italia in cui sono più alti i valori del consumo di suolo, che è impermeabilizzato dallo sfruttamento agricolo intensivo e da un processo di continuo schiacciamento da mezzi pesanti necessari a questo tipo di industria agricola. Anche questa è guerra, e per rendere ancora più esplicita la militarizzazione dei territori e degli spiriti, arriva la nomina del generale degli Alpini Figliuolo a commissario per la ricostruzione post alluvione. E non dimentichiamo che poco prima della destinazione di finanziamenti all'Emilia è arrivata sul tavolo del Parlamento italiano la proposta del commissario per il mercato unico di adoperare i fondi del PNRR per aumentare la produzione di munizioni da destinare all'Ucraina. Questa è guerra ed è guerra violenta. E per non lasciare indietro nessuno, quello che è successo a Milano, la violenza verso una donna trans, è guerra contro i corpi e le sessualità eccedenti e dissidenti. Il potere è guerra, guerra continuata con altri mezzi all'interno di ogni paese. Basti vedere la conversione poliziesca del militare e la conversione militare del poliziesco, oggi diventata una tecnopolizia pervasiva, una polizia postmoderna che usa la tecnologia dell'intelligenza artificiale per realizzare un mondo di ipersorveglianza. Vite a perdere. Salari bassi, precarietà permanente, tempi frenetici, solitudine e mera strumentalità delle relazioni. La vita è insopportabile per l'assenza di senso e di futuro, per la vittoria di un destino infame senza il contrasto di una prospettiva ribelle, perlomeno reattiva, che è necessario elaborare e fare vivere. La periferia della vita è un aggregato di persone e potrà tornare ad essere quartiere, comunità, se tornerà ad esserci qualcuno che ti chiama compagna, compagno, sorella, fratello, amica, amico. E così tornerà anche la memoria degna degli anni di idee e di lotte che ci hanno preceduti. Idee e lotte che sono un arsenale disponibile a chi, fuori da ogni rassegnazione subalterna, sceglie di usarle oggi per lottare contro la guerra, l'ingiustizia sociale e ambientale. Intanto il tempo corre. Le rovine delle città bombardate nella Seconda Guerra Mondiale sono tragicamente modeste rispetto all'orrore e alle conseguenze di lunga durata che può realizzare una guerra atomica. È moralmente e culturalmente ineludibile protestare, opporsi, manifestare, impegnarsi, incontrarsi, discutere, fare propaganda, associarsi per una lotta di lunga durata contro la guerra. L'ignavia e l'indifferenza sono un'infame complicità. Qualsiasi guerra dei milionari, qualsiasi sia la bandiera, è una guerra contro i poveri, contro i popoli, contro l'umanità. La guerra dei poveri e degli oppressi, di qualsiasi colore, contro i ricchi e gli oppressori, di qualsiasi colore, è l'unica guerra giusta. Organizziamoci dovunque contro la guerra dei milionari di ogni paese. E rimaniamo all'ascolto adesso di questa band che abbiamo appena ascoltato il primo brano. Loro sono i Nice, band pugliese della zona di Foggia, comunque Nice che è l'acronimo di Nevrosi Irreversibile del Sistema, e questo è un loro CD, mini CD promozionale del 2009. Yeah. Allora, volevo fare un saluto anch'io a tutti quelli e tutte quelle che sono in ascolto di questa puntata di Zardins Magnetics di giovedì 20 luglio e darvi solo due veloci aggiornamenti repressivi, purtroppo. Il primo, molto veloce, non sono sicuro, ma mi sembra che già l'altra settimana, forse no, avevamo dato la notizia che era stato tratto in arresto e sì, rinchiuso in carcere un compagno, Pasca. Nel frattempo è già stato trasferito e adesso Pasca si trova al carcere di Opera a Milano, quindi per scrivergli Pier Loreto Fallanca, via Camporgnago 40, 20141 Milano. È il compagno Pasca che curava anche una, tra l'altro ultimamente, una trasmissione sulla Onda d'Urto, una trasmissione settimanale. E invece l'altro aggiornamento un po' più vicino e leggermente è del collettivo Levante di Padova. Nella tarda mattinata odierna, dicendo di ieri, il tribunale di Padova, cioè del 19 luglio, il tribunale di Padova ha condannato 14 compagni e compagna a 8 mesi di reclusione, oltre ai pagamenti delle spese legali di Atter per più di 14.000 euro, del danno patrimoniale di 3.000 euro e del danno non patrimoniale di 1.500 euro. Il contesto è quello della seconda occupazione dell'infospazio Chinatown, sede dell'associazione culturale Nicola Pasiani, in piazzetta Caduti della Resistenza a Padova, un luogo che dal 1999 ha rappresentato un centro di aggregazione per tanti proletari del quartiere e della città, facendo vivere il rione grazie a centinaia di iniziative politiche, sociali e culturali, dai dibattiti ai cineforum, dai concerti alla biblioteca, dalle feste delle comunità residenti fino al doposcuola popolare. In particolare l'associazione è stata un punto di riferimento politico comunista per tutti coloro che, stanchi delle briciole delle logiche istituzionali, hanno provato a organizzarsi sul terreno della lotta, come quella del diritto alla casa, mai mossi da tornaconti personali, ma spinti dalla determinazione a strappare una vita migliore e dalla consapevolezza che questa si possa ottenere solo lottando. È per questo che sull'onda dell'inchiesta a danno dell'allora comitato di lotta per il diritto alla casa, che coinvolge 75 persone tra compagni occupanti e inquilini sotto sfratto, la sede dell'associazione viene sgomberata prima nel 2016 e poi nel 2018. Che sia un ente criminale come Ater a muovere accuse e pretendere risarcimenti provoca una forte rabbia. A fronte in un contesto di sfratti, sgomberi, aumenti dei canoni d'affitto, svendite all'asta degli alloggi popolari, speculazioni e enormi ritardi nei lavori di ristrutturazione e efficientamento energetico che, proprio nel rione Palestro, vedono la gran parte delle numerose palazzine abbandonate a se stesse, senza l'ombra di un cartello di inizio dei lavori, previsti un anno fa. Come abbiamo anche sostenuto con uno scritto collettivo in aula, ribadiamo che per noi l'illegalità consiste nel lasciare centinaia di case vuote per favorire la speculazione edilizia, come fa da decenni l'Ater, seguendo una politica supina alle esigenze del mercato immobiliare. A Padova ci sono centinaia di alloggi pubblici vuoti, molti lasciati a marcire, tanti altri abitabili, altri ancora perfettamente ristrutturati, a fronte di tutti coloro che vivono in situazioni di sovraffollamento o addirittura in macchina. Rigettiamo quindi fermamente le accuse di delinquenti e le rimandiamo a chi sfratta, sgombera e specula. Al di là del contesto specifico, vogliamo però anche sottolineare quello che rappresenta un precedente pericoloso, ovvero una condanna per invasione, laddove questa non è provata da riprese o da testimoni. Nessuno ha infatti potuto provare chi abbia materialmente forzato la porta per accedere allo stabile sgomberato da Hatter, ma sono bastati dei fotogrammi risalenti ai giorni successivi alla data del 16 maggio 2018 per avvalorare la tesi della continuità dell'occupazione, anche a danno di chi ha transitato brevemente nei pressi dell'infospazio Chinatown. La condanna odierna rappresenta quindi un salto di qualità a livello repressivo insieme a quella per l'occupazione abitativa di via Facciolati 96 e una visaglia per tutti coloro che lottano e solidarizzano. La guerra, sostenuta dal nostro governo, totalmente asservito ai diktat della NATO, non fa che approfondire la crisi economica e aggravare le condizioni delle masse lavoratrici del nostro paese. E se chi ci governa prosegue militarmente la sua politica a lacrime e sangue verso manovre sempre più antipopolari, contemporaneamente si scaglia pesantemente contro chi lotta e si mobilita per tentare di sedare ogni forma di dissenso. Emergenze continue, repressione dei giovani e dei lavoratori che lottano per i propri diritti e conseguente accanimento giudiziario sono la manifestazione lampante della tendenza alla fascistizzazione della nostra società, a cui tutti coloro che siedono in Parlamento, di qualsiasi colore politico si dipingano, stanno contribuendo. E con questo presente e la sua prospettiva che continueremo a lottare dentro e soprattutto fuori le aule del Tribunale, negli scioperi come nei picchetti, consapevoli che la strada è in salita, ma che quello di rovesciare questo sistema è l'unico modo per vivere anziché sopravvivere. Collettivo Levante Padova, quindi era questo un comunicato che è uscito ieri 19 luglio. Volevo dare anch'io due aggiornamenti nefasti che riguardano Udine. Allora, intanto dal 17 luglio i militari presidiano di notte il perimetro della caserma Cavarzerani contro ingressi abusivi, dicono loro, e contro lo spaccio. E allora, già chi abita a Udine sa, insomma, questa presenza invadente dei militari, tra l'altro armati, cioè nel senso mimetica, con i mezzi corazzati lì, ma anche armati con la roba in mano, insomma con le armi in mano, e in zona stazione soprattutto, e che comunque si girano, anche si muovono. Ma questa cosa qua del pattugliamento notturno, insomma, è una roba nuova. E giravano in assetto così bellicoso durante il lockdown, appunto per controllare chi cercava di prendere aria. E ecco, poi un'altra, sempre riguardo la Cavarzerani, probabilmente questo è così una mossa, diciamo, in quanto sulla Cavarzerani c'è questo progetto di cittadella della sicurezza al servizio della Polizia di Stato. E praticamente hanno già l'Agenzia del Demanio ha già pubblicato il bando per la progettazione definitiva di questa cittadella, e si chiamerà Nuovo Centro Polifunzionale della Polizia di Stato. E vi dico anche i soldi, perché comunque minchia, 3.993.710 euro, questo è il bando. E appunto ci sarà, o c'è già stato, perché chiaramente queste cose poi le tengono abbastanza segrete, questa conferenza dei servizi organizzata da Marchesiello, il prefetto, per un po' spartirsi, insomma, tra varie entità così la realizzazione di questa cittadella della sicurezza. E parlano dei 540 ospiti Ce ne sono, ci sono 540 persone in questo momento, anche probabilmente in questi giorni anche qualcosa in più, nel senso che questa notizia è di qualche pochi giorni fa, e insomma c'è questa così cruccio adesso di trovare un'altra collocazione per queste persone che già vengono ospitate, lo ricordiamo, all'interno della caserma, che insomma è abbastanza fatiscente, e anche ad esempio nelle tendopoli allestite al suo interno con le temperature che ci sono, eccetera, non è proprio così un bel vivere. Ecco, quindi su Udine incombe anche questa cittadella della sicurezza. Adesso stiamo ascoltando in sottofondo, anzi in realtà avevamo già iniziato ad ascoltare in sottofondo questa band durante l'intervento precedente. Questa è una band inglese, loro sono i Riot Squad, questo è il loro album datato 1984, e la band era nata circa 2 anni prima. Ecco, e arriviamo a chi ha ricevuto insomma la scaletta, diciamo, di questa sera. Ha visto che c'è anche questo tentativo di riflessione sull'incompiutezza come pratica di liberazione. Allora, vediamo se riesco a farmi capire, cioè a esprimermi in maniera decente. Allora, si parte da questo libro, Guerriglia Froccia, sulla George Jackson Brigade e il collettivo gay anticarcerario Men Against Sexism. E gli anni sono 1975-1978. Si tratta di una pubblicazione delle edizioni Anarcho Queer, che appunto le compagne e compagni hanno ritradotto, diciamo, i documenti che vengono pubblicati in maniera veramente pregevole. Allora, io ho letto questo libro e tra le varie cose, un libro interessante da tantissimi punti di vista, però diciamo una cosa che mi ha colpito particolarmente è questa testimonianza di Ed Mead, che è stato tra i fondatori appunto di questo movimento, di questo collettivo gay anticarcerario Men Against Sexism. Allora, la lettura di questa sua, che adesso insomma vi leggerò alcuni brevi sue dichiarazioni, la lettura di queste sue dichiarazioni, queste sue dichiarazioni mi hanno risuonato nella mia memoria e sono ritornata a una lettura che avevo fatto un po' di tempo fa, un articolo molto interessante, insomma, articolato di Nicoletta Poidimani, che è contenuto nel libro E il piacere, il godimento oltre la differenza, un libro edito dalla Colibri nel 1997, quindi un bel po' di tempo fa. E allora, in questo scritto di Nicoletta Poidimani è veramente vertiginoso, nel senso che è uno scritto femminista, analizza un po', parte, diciamo, dal femminismo della differenza, lo scardina, tiene e puntualizza dei concetti importanti di Lucia Irigaray e poi di Teresa De Laurentiis, insomma, adesso non sto a fare tutta la solfa, comunque, anzi, vi invito a leggerlo, poi darò le indicazioni più precisamente, perché è un articolo veramente vertiginoso, nel senso che in maniera sintetica e incisiva, però va a toccare tantissimi punti focali, diciamo, del femminismo. E lei, Nicoletta Poidimani, appunto, scrive in un momento in cui c'è tutto questo proliferare di riflessioni sulla spiritualità, sull'intellettualità, e in cui da parte delle femministe il discorso del corpo viene un po' messo in secondo piano, e lei invece dice: no, io invece voglio parlare del corpo, perché è attraverso le pratiche del corpo che cambiano le relazioni. Cioè, lei dice: una reale trasformazione vi è quando il materiale trasforma il simbolico e non viceversa. Invece c'era questo enfatizzare la roba del simbolico. Ma per arrivare al discorso dell'incompiutezza, lei, Nicoletta Poidimani, tira fuori, diciamo, cioè lei dice: come possiamo usare delle nostre diversità? E lei tira fuori un concetto praticamente di La Passade, cioè il concetto di neotenia, cioè questa condizione di incompiutezza dell'essere umano quando viene al mondo, però anche questa condizione di incompiutezza intesa in senso creativo, come possibilità e non come mancanza, diciamo, in realtà è una condizione che l'essere umano vive, potenzialmente vive in tutta la sua esistenza, mentre di solito è una risorsa, dice Nicoletta Poidimani, sempre a portata di mano, che però poco viene utilizzata a causa del mito della compiutezza, no, dell'adulto, diciamo. Allora, questo discorso dell'incompiutezza a me e della neotenia mi è venuto su, insomma, leggendo appunto questa testimonianza di Ed Mead. E ve la vado a leggere, così poi la commento. Allora, intanto lui viene arrestato nel 1976 durante una rapina George Jackson Brigade, che va male questa rapina. Lui viene arrestato, tutta una serie di vicissitudini, viene portato nel carcere di Valla a Washington, stato di Washington, dove viene messo in isolamento, in una condizione, un carcere durissimo, e in una condizione veramente molto dura. Qui come primo approccio, diciamo, con la detenzione in questo luogo, lui aveva una storia di detenzione, perché comunque faceva parte del proletariato, aveva anche una vita familiare, ha avuto una storia familiare, diciamo, particolare, non difficile nel senso così scontato del termine, ma una vita fuori, diciamo, dalle regole tradizionali, perciò si è subito esposto anche al rischio, diciamo, della repressione, appunto. Quindi è finito anche da giovanissimo in carcere, quindi aveva un'esperienza di carcere, ma non un'esperienza di carcere gigante, di massima sicurezza e veramente dove c'erano delle violenze inaudite come quello di Valla Valla. Lui entra in questo carcere e subito ha questo approccio con questa predazione, diciamo, queste gang di detenuti che hanno questa volontà e questa impongono questa predazione sui nuovi venuti, soprattutto sui ragazzi molto giovani che non avevano magari nessun aggancio all'interno del carcere con altri prigionieri, e con naturalmente la complicità delle guardie. Perché in cambio, diciamo, della pacificazione all'interno del carcere e delle mancate rivolte, diciamo, delle mancate ribellioni, le guardie concedono a questi predatori, come li chiama Ed Mead, di fare i loro traffici di carne umana. Allora Ed Mead, ma non solo lui, poi con altri, insomma, compagni, decidono di opporsi a questo discorso dello stupro tra prigionieri, di opporsi a questa mercificazione, a questo sfruttamento, a questa violenza, insomma, dei più forti sui corpi di quelli che sono ritenuti più deboli. Allora ci dice Ed Mead: è in questo contesto, quindi in questo contesto dell'isolamento e del carcere duro, che ho cominciato a esplorare l'aspetto femminile della mia natura, facendo coming out come omosessuale a me stesso e alle persone intorno a me, e imparando ad accettarlo come parte di me. Alcuni di questi uomini non mi piacevano, mentre altri li amavo. Desideravo la facoltà e la libertà di approfondire questi ultimi sentimenti, dando loro un'espressione sessuale. Ma in prigione l'omosessualità e qualsiasi cosa avesse a che fare con la femminilità erano davvero guardate dall'alto al basso. Le pose e gli atteggiamenti effeminati erano considerati segno di debolezza, e chi li manifestava diventava facilmente oggetto di persecuzione. Quello che faceva un paragone con la sessualità di una donna, puttana, troia, eccetera, era considerato il peggior insulto. Le donne non venivano mai nominate con termini alternativi, era un modo per chi era totalmente impotente di provare a ottenere una parvenza di controllo, opprimendo altre persone percepite come ancora più deboli. Il termine migliore che la maggior parte dei prigionieri poteva trovare per riferirsi a una donna che conoscevano era tipa. Gli uomini gay erano oggetto di derisione. Nella gerarchia di reputazione della prigione, gli omosessuali erano appena un gradino sopra ai pedofili. Il mio coming out non è stato tanto il risultato di un trainante desiderio sessuale per gli uomini o per un uomo in particolare, ma più il prodotto di una decisione razionale, intellettuale e politica che ho maturato nella mia coscienza nel corso del tempo. Ero da poco tornato in carcere con un doppio ergastolo e una notevole consapevolezza delle questioni riguardanti le donne. Sono arrivato alla conclusione che le donne non avevano bisogno dell'ennesimo uomo che prosciugasse le loro energie. Se avevo dei bisogni emotivi e sessuali, sarebbero stati altri uomini a soddisfarli. In passato, fuori dal carcere, avevo avuto occasionalmente rapporti omosessuali, per cui l'idea del sesso con gli uomini non mi disgustava. Contemporaneamente, dentro di me stava nascendo l'idea di creare l'organizzazione Men Against Sexism. Forse il fatto di adeguare il mio comportamento sessuale per rientrare nel gruppo di persone che più volevo raggiungere potrebbe suonare opportunista, ma volevo mettere fine alla schiavitù sessuale nel carcere, e lo avrei fatto come membro del gruppo delle vittime, piuttosto che come un estraneo. Inoltre amavo davvero persone come Danny Atterbury, Mark, Carl e Joe. Va bene. E quindi che cosa, cioè, a me ha dato questa, insomma, penso che sia, non avevo mai, cioè, è stata questa diciamo presa di posizione, questa scelta e anche questo sviluppo di sensibilità da parte di Ed Mead, e mi ha appunto ricordato questo discorso della neotenia e della quindi incompiutezza di provare a utilizzare l'incompiutezza come risorsa. E poi c'è da dire un'altra cosa interessante di questa, di questo movimento, di questo collettivo gay anticarcerario, scusate, carcerario contro gli stupri, insomma contro la violenza sessuale e contro il sessismo, che cioè ha dei momenti, ha degli alti e bassi, ci sono dei momenti in cui diciamo c'è abbastanza corrispondenza anche con i detenuti comuni e non solo con i detenuti politici, altri momenti invece in cui c'è più crisi e più difficile, e prevalgono diciamo queste altre così istanze predatorie. Però Ed Mead e gli altri compagni sempre intanto hanno una loro autorevolezza, in quanto la George Jackson Brigade aveva fatto tutta una serie di azioni a favore dei prigionieri, insomma contro il sistema carcerario, e aveva sostenuto le lotte anticarcerarie da sempre, quindi li conoscevano dentro, ma in più loro mettono il dito nella piaga rispetto a questa alleanza tra detenuti diciamo che vogliono fare il bello e il cattivo tempo e sistema penitenziario attraverso le guardie carcerarie. Continuamente mettono in luce questo legame che c'è tra carcerieri, questo lui lo dice, lo chiama rapporto di amore e odio, continuo rapporto di amore e odio tra carcerati e carcerieri. E mettendo in evidenza questa cosa, non lasciando passare mai, e concentrandosi appunto invece sugli oppressori, quindi sul sistema carcerario e lottando contro il sistema carcerario, riesce Ed Mead, ma e insieme ai suoi compagni riescono, di appunto Men Against Sexism, a portare avanti, a sostenere, a portare avanti delle lotte molto importanti, anche scioperi, per dire, mi viene in mente uno sciopero dei lavoranti di 47 giorni, cioè robe insomma importanti, e quindi a ottenere anche delle condizioni di vita più accettabili all'interno del carcere, smascherando appunto gli infami, i veri infami, che sono questi qua che si alleano a momenti alterni con le guardie per fare il bello cattivo tempo. E quindi insomma c'è questa cosa qui. Poi chiaramente la lotta contro gli stupri e le violenze non ha mai fine, come non solo nel carcere, ma come in tutta, insomma, in tutte le situazioni, le condizioni. Però questa è una cosa importante, diciamo, che viene fatta, che va conosciuta, perché è comunque un aspetto, secondo me, molto sì, molto particolare, insomma, e il fatto che venga poi da maschi, diciamo, è ancora più particolare, più importante. Una cosa ultimo, poi finisco che siamo tardi, ma addirittura loro arrivano, questi compagni, a ospitare nella loro cella un detenuto, un giovane detenuto che era dentro per questioni di abuso su bambini, perché appunto questo detenuto viene individuato come schiavo sessuale da parte di altri prigionieri, e loro appunto quindi rompono anche questa roba pesante, insomma, nelle carceri chi si macchia di questi reati contro i bambini non viene, insomma, è visto molto, è giudicato in maniera molto grave. però loro rompono questa cosa qui di, e dicono no, cioè prevale, diciamo, nella loro azione, lo portano all'interno della loro cella, in quanto non accettano che ci sia questa forma, insomma, di sfruttamento, violenza e mercificazione da parte di altri detenuti. Cioè loro dicono basta, dobbiamo farla finita con questa roba, e quindi fanno questo gesto, che è una roba, insomma, grossa. E infatti, per farsi capire poi dalla popolazione carceraria, devono sputare pallini, però alla fine comprendono questo anche gli altri detenuti, cioè questa cosa, insomma, ha un esito, ecco, e ha un esito rispetto alla presa di coscienza che le violenze tra oppressi devono finire, ecco. Bon, spero di essere, di aver detto, insomma, abbastanza. E allora, no, vi ricordo però la lettura. Intanto la lettura della Nicoletta Poidimani. Abbiamo detto che il titolo è E il piacere, il godimento oltre la differenza, edito da Colibrì nel 1997. Trovate il testo integrale, questo testo suo più una lunga intervista con la Daniela Pellegrini, e nel blog di Nicoletta Poidimani, che basta digitare, lo trovate. E poi, appunto, ricordo anche il libro Guerriglia Frocia, delle edizioni Anarco Queer, che libro che tra l'altro trovate, potete chiederlo alle edizioni Anarco Queer, ma lo trovate anche nella sede di Via De Rubeis quando ci sono le iniziative, perché lo distribuiamo. Bene, siamo giunti al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che viene in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle ore 21 e 30. E, ovviamente in diretta, come già detto, ma siamo proprio tiratissimi con i tempi e quindi ci salutiamo, vi ricordo i nostri contatti, se volete scriverci in forma via mail, intestando ovviamente tramite la mail liberetutti@autistiche.org, oppure scrivendoci in forma cartacea e intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34 121. Ricordo anche che la trasmissione odierna, ma anche tutte quelle dei giovedì scorsi, potete ascoltarle sul blog zardismagneticsradio.noblogs.org. Bene, salutiamo tutti, anche chi ci ascolterà domani in replica sulla web radio Radiazione dalle ore 17. Ora probabilmente ascolteremo un brano ed è estrapolato da questo diciamo CD compilation che raccoglie il quarto festival hardcore, la RAIE Hardcore Fest, che viene fatto all'Aquila. Questo è del 2015 e ci ascoltiamo questo brano Neocannibalismo dei Ratos de Porão.